Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ciao grande Alessandro Magno. Io penso una cosa, è vero che non si debbano fare polemiche in una giornata come questa, però una cosa dobbiamo dirla: il campanile di Amatrice è il simbolo dei ritardi di questa emergenza da parte del governo. Siamo messi male stanotte, passare una notte con 2 metri di neve, almeno 7-8, penso che è un po' difficile. Noi non stiamo battendo tutti i record, che 4 terremoti, con Amatrice quasi sempre al centro, le temperature a cavallo dell'epifania le più rigide da 25 anni a questa parte, la nevicata più copiosa dal 1954 ad oggi. Io non so che male abbiamo fatto a Cristo, non lo so, però sono convinto che tante persone pregano per noi. Oh, in questi momenti difficili, soprattutto per il centro, sud Italia, lasciamo stare queste cose che abbiamo fatto di male a Cristo. Sindaco di Amatrice, per favore, massima solidarietà a tutto il paese, a tutti i paesi colpiti dal terremoto, dal gelo. Massima solidarietà, ma lasciamo stare la religione col terremoto, ancora questa idea di millenaria, di la punizione divina, ma che è? Dai, su, dai, per favore, ecco. Va bene, ho fatto il mio sfogo quotidiano alle 6:33 minuti, rientro in me, a 24 mattino c'è Peter Bescapè in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, siamo qui, insomma, massima solidarietà effettivamente a tutte le popolazioni colpite dal terremoto, vedete che è finita anche la Pax, la pace politica con Di Maio che inizia a lanciare delle polemiche, in questo caso sul campanile di Amatrice, ma insomma questa mancanza di polemica che si era sentita per un po' di tempo adesso torna ad affiorare anche sul terremoto. Vabbè, scriveteci al 349-238-6666 se siete nelle zone colpite dal gelo, oltre che dalle nuove scosse di ieri, per raccontarci come è andata questa nottata. Noi siamo qui, scriveteci anche via WhatsApp. Allora, io voglio salutare un graditissimo ritorno, c'è Antonio Di Pietro, come sta? Buongiorno a tutti e veramente un abbraccio a tutti gli amici di Amatrice e dintorni, davvero sì. Così. Ma dove sta intanto lei, giù al sud o no, io sono nel profondo nord, in quel di Bergamo. La scampata, nella sua Bergamo, perché sapete che Antonio Di Pietro sta a Bergamo di fatto. Io sono italiano, un italiano del nord è un po' difficile dirlo. Come se andano a parlare, che sono proprio del profondo sud anch'io. Ma a Bergamo, come questo suo italiano, come lo accolgono? Sono abituati al che ci azzecca? Inizialmente diciamo così, dice, ma questo è che ci azzecca, adesso ci si sono abituati, almeno a gesti ci intendiamo. Cioè, va a prendere il pane a Bergamo, entra. Oh, Di Pietro! E vabbè, è così, e finisce così. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento, avanti. Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma forza, dovremmo e vorremmo anche sbrandare Federico Novella dal TG4, ma così Federico Novella in questo momento dorme, è sotto una coltre di neve, sotto il piumone, e non si sa, ma arriverà. Caro Di Pietro, vabbè, a parte il terremoto, oggi ho trovato una notizia sul Giorno. No, però mi lasci dire una cosa, sì, il terremoto. Sì. Lei sa come io ho sempre difeso il Movimento 5 Stelle, ho sempre detto che questo ricambio generazionale va bene, eccetera, però questo gesto di speculazione di Di Maio non l'ho capito, sinceramente. Non le piace, sì. Me lo devo dire perché io sono sempre stato un difensore di quelle ragioni, ho sempre detto che sta troppo con gli occhi puntati addosso, che hanno criminalizzato la RAI oltremodo, eccetera, eccetera. Però adesso non facciamo i politici furbacchioni che sulla pelle, sui drammi delle popolazioni, è ovvio che è successo un disastro, è ovvio che ogni giorno ne capita qualche cosa di più, ma adesso criminalizzare e speculare sopra non è il momento. Effettivamente è proprio così, non è poi il campanile di Amatrice, il simbolo di, ma magari anche proprio, come dire, no, ma è così, sono quelle furbate alla ricerca di un consenso facile che non fa onore a una... Non vado bene. Ma sto Di Maio, ma com'è che... Come la vede Di Pietro questo Di Maio, appunto, che visto che l'ha tirato in ballo, ogni tanto viene accusato, fa delle gaffe, è giovane, però... No, è una persona semplicemente che si presenta bene, che però è più politico di quanto ci si possa immaginare. Va bene, ringrazio Piero da Bergamo che mi scrive: sei un emerito razzista. A me, Milan, sei un emerito, ma no, vergognati, ma perché ho sarà ironizzato? Ma sarà un interista, ma infatti. Saluto invece l'ascoltatore da Somendenna, in provincia di Bergamo. Ci scrive: Somendenna, la frequenta, ripeto, Somendenna. Ha sentito parlare di Somendenna, questo paese? No, deve essere tutta gente per bene, non ne ho mai preso nessuno. No, ma Somendenna, questo paese in provincia di Bergamo, lo conosce? No, non confesso. Va bene. Allora, siamo qua. No, dicevo, la notizia che mi ha colpito è che così... So che questa cosa è mettersi un po' un coltello nella piaga di Pietro, che in Parlamento da questo punto di vista ha avuto un problemuccio. Allora, c'è stato l'ultimo deputato che ha voltato Gabbana. Si chiama Murgia. Ma ce n'era ancora qualcuno? Sì, si chiama Murgia, ce ne sono ancora altri. E sono 147 dall'inizio della legislatura i parlamentari che hanno cambiato casacca, appunto. Pagina 12 del Giorno, che fa un'inchiesta. Ma cosa ma si può fare? Allora, questo è andato da Il Misto a Fratelli d'Italia, che è FDI è Fratelli d'Italia, no? Sì. Comunque almeno ha scelto di stare in qualche parte. La cosa mista è tutta una frittura mista. No, però il 23% dell'aula ha cambiato. Cioè, cosa possiamo fare, caro Di Pietro, perché per evitare un qualcosa che è perfettamente legale e consentito ai parlamentari? Ma in America è prevista la possibilità che a metà legislatura appunto si vada a richiedere la conferma della propria fiducia dagli elettori. Forse questo bisognerebbe farlo. La verità è molto più semplice, che nel nostro Parlamento con quella legge elettorale ci sono andate tante persone in cerca d'autore, che appunto devono ancora capire da che parte stare e che cosa fare, proprio perché non sono state elette con i propri voti, ma si ritrovano in Parlamento per grazie di seguito. Ho capito, ma in America, ma in Italia, cioè, voglio dire, qui... In Italia ci vuole una legge elettorale con cui si stabilisce un rapporto fiduciario diretto tra elettore ed eletto. Sì. Oggi come oggi, lei sa meglio di me, che stanno in Parlamento persone elette con una legge elettorale incostituzionale e soprattutto senza una scelta da parte dell'elettore, e quindi sono persone che non devono rispondere a nessuno e che in questo momento, man mano che si avvicina la fine della legislatura, stanno cercando di capire cosa inventarsi per cercare di ritrovare un posticino, perché altrimenti non lo trovano. Certamente. Pensi un po', guarda qui chi ci ha intervistato. Perché una volta mi dicevano a me che io avevo messo il razzi della situazione. Infatti dicevo, guarda razzi, chi... Ma quanti razzi ci stanno? Guarda. Che passa roba. Ma quella ha avuto almeno la sputoratagine, stavo a dire il coraggio, non va bene, ma la sputoratagine è dire sto qui perché mi devo fare i razzi miei, questi li fanno tutti. Infatti è incredibile, dicevo, ma deve avere un po' il dono della telepatia, caro Di Pietro, perché guarda un po' chi ti intervistano a commentare questa notizia. Tale Antonio Razzi, parlamentare, che dice stavolta resto con Silvio a costo di chiedere l'elemosina. Ecco Di Pietro, ma non potete. Mo che si è sistemato. Vabbè. Ma non l'ha più incontrato Razzi, no? Non l'ha più incrociato a Roma. Non l'ho incrociato e voglio dire, alla fine io non, la colpa non è sua, la colpa è mia, è che ho sbagliato a scegliere. Vabbè, uno mica può vedere. Ma può amico capire. Mio, te l'ho già detto l'altra volta, dire il giorno dopo, ma che cosa hai fatto? Perché se tutti sapessimo prima quel che succede dopo, non esisterebbe l'istituto del divorzio. Esatto, prima di tutto il divorzio e poi si capirebbero alcune cose. Comunque 147, no, per esempio dicono si potrebbe aumentare il numero dei parlamentari che servono per fare un gruppo parlamentare, da adesso credo che siano 20, si potrebbe portare a 30, perché lì sono soldi che si ciucciano poi i gruppi parlamentari. Questo è successo in Europa con i miei amici del 5 Stelle, che hai visto che cosa hanno dovuto fare, sono dovuto andare a copiare di qua. Potevano stare col diavolo e con l'acqua santa purché stavano nel gruppo per poter mantenere i propri benefit. Già due volte che dice gli amici 5 Stelle li bastona. Prima però, Di Maio e poi adesso in Europa. No, per l'amore di Dio, io li ho sempre difesi, però adesso ho paura che stiano facendo qualche errore che ho fatto anch'io quando facevo politico, cioè quello di... cominciare a fare il politichese, quello non va bene, l'ho sbagliato già io, non sbagliate pure voi, per favore. Ecco, e quindi ma Di Pietro è in crisi adesso politica, mi sembra, chi vota? Cioè, perché... Io sicuramente sono sempre andato a votare, quindi ci andrò anche questa volta, costa di votare scheda bianca. In questo momento voterebbe scheda bianca? Non in questo momento, sinceramente no, io mi assumo sempre le responsabilità, però sono in grossissime difficoltà, che poi è la ragione per cui ancora il Movimento 5 Stelle ha un consenso, cioè vale a dire alla fine per chi voto do un voto almeno di rabbia. Però è un voto di rabbia. Hai capito? Questo è che fa il cittadino in questo momento, e questo è il consenso. Per questo io in questo momento sono in grossissima difficoltà, proprio perché non ho mai fatto un voto di rabbia io personalmente, vorrei dare un voto di consenso. Di consenso. Sono molto in crisi, però non mi asterrò dall'andarci in quel momento, e non dirò, lo voglio tenere in segreto, giuro, se mi chiama la mattina prima o la mattina dopo glielo dico. Glielo dice. Allora le do un suggerimento, ripeto, visto se ha dei dubbi, c'è voto una malanno. C'è una persona che sta cercando di rientrare. Partirà a febbraio con tre pullman. Se vede tre pullman che girano, non so con quale slogan, sappia che su uno dei pullman c'è Renzi. Sta per partire per partire con un tour tra la gente a costo di prendermi i fischi. Ha detto che scenderà tra la gente, è andato a Scampia, farà nuove cose, vuole... Ma già che sta in pullman, voglio dire, vada. Ti sei messo sopra e vai. Ma dove? Ma ci stanno tante, voglio dire, ognuno si sente il suo. Non dica da Mamet, insomma. No, ad Mamet, no, dai, ad Mamet. Per lei dire vada da Mamet è il peggiore esilio che si possa augurare a un politico. Vada. È un po' come quell'altro. Ma quindi è contento? Di Pietro, oggi c'è un'intervista di una pagina intera a D'Alema sul Corriere della Sera che dice Renzi è stato un fallimento, con lui è evidente che perderemo sempre, è un disastro. Cioè, capisco no. che c'è il vento avvelenato, però quando ragiona ci azzecca, quando ragiona su Giannis e quando ragiona su quello che ha fatto lui. Che non ci azzecca, che non ci azzecca tanto. Però obiettivamente anch'io sono rimasto insoddisfatto di quel che ha fatto. Anche perché, sai perché, a me io direi sempre questo fatto che lui vendeva la pelle dell'orso prima di averla preso. E ogni mattina si alzava, domani faremo, la miseria, ma quando nasce questo bambino? domani faremo. Vabbè, in pullman vada. Allora facciamo così, diamo le informazioni sul traffico, così vediamo se Renzi troverà traffico appena prenderà il pullman. Rientriamo tra poco con Antonio. Te lo dico da amico, fatti i cazzi tuoi. Caro Alessandro, la differenza tra il furbetto del quartierino e il furbetto del cartellino e il furbetto del missionino è che il furbetto del missionino gode di leggi di extraterritorialità. Le catapulte, Milan, devono usare le catapulte. I parlamentari sono come i Blues Brothers, sono in missione per conto di Dio. Lei la rivoterebbe la Raggi? Io sì, io soprattutto le darei una possibilità che è quella del tempo, lo stesso tempo che è stato dato agli altri sindaci. Certo che lei rivoterebbe la Raggi, chiesto alla Raggi, vabbè, è chiaro che doveva dire. Vabbè, no, questa cosa dei furbetti del missionino me la sono inventata di Pietro, perché questa era un'altra questione uscita due giorni fa sul Fatto Quotidiano, quelli che si mettono in missione, dei parlamentari, non è che fanno il preti, vanno in missione sul territorio per non farsi scalare la diaria. Quindi sedute. Per esempio quello che bisognerebbe insistere è di far rendere pubblico l'elenco di tutti coloro che si sono che hanno dichiarato di stare in missione e poi andare a vedere. Ma forse perché... è pubblico, non è pubblico. Non è ancora, no, qualcuno si viene a scoprire per caso, ma non ci sta l'elenco. Provi a vedere, vedrai che ancora adesso l'elenco. Più che altro che facciano i controlli, perché pare che basti mandare un fax alla Camera. A dire... Lo so, ma quelli che ha fatto i controlli in missione. Quello che fa i controlli in missione. E anche quello che fa i controlli in missione. Sono tutti in missione, va bene. Intanto i soldi... Se uno è giudice di se stesso, tu che fai? Certo. Oggi giudico io, perché quella è rotazione, no? Sì. E allora io metto la mano a te, tu metti la mano a me. Va bene. All'italiana. All'italiana. Allora, ma la Raggi, ma frequenta un po' Roma, Di Pietro? No, prima volevo chiedere questa cosa, ma com'è finita la questione della Pedemontana? Ma non è più lì alla Pedemontana? Sono ancora... ha fatto due domande in uno. Infatti mi è venuto in mente la Pedemontana. Innanzitutto la Raggi, di prima mattina glielo consento, per amore di Dio, ancora un po' di caffè. La Raggi. Cominciamo con la Raggi. Vede, io prima ho fatto delle critiche agli amici del Movimento 5 Stelle, però questa volta c'ha ragione quella signora che diceva appunto che si chiama Raggi stessa. Sì, io darei la possibilità alla Raggi di avere il tempo che si è dato agli altri sindaci, anche soprattutto perché lei è andato lì e ha trovato un disastro. È troppo facile dire... In 15 giorni ancora non mi ha rimesso a posto un disastro di 15 miliardi e passi di debiti con tutto che sta sotto sopra. Quindi questa criminalizzazione, peraltro, se ne stanno accorgendo tutti, che è una strumentalizzazione della criminalizzazione per diciamo così, debilitare la fiducia di una persona. Quindi sotto questo aspetto io difendo questa signora proprio perché mi pare che si presenta da lei in pochissimo tempo di risolvere ciò che per 20 anni non hanno risolto. Perché ho fatto tutto questo? Perché c'è un interesse anch'io a dirlo. Io come lei sa, sto facendo il presidente di un'autostrada che si deve ancora fare. Una ventina d'anni fa avevo detto che bisogna fare e che ancora oggi non si capisce se e come si può fare, semplicemente perché quando è stata ideata con dei costi enormi rispetto a quel che si poteva sopportare per le macchine che ci passavano, semplicemente perché con la scusa dell'autostrada ci hanno messo una serie infinita di opere intorno. È ancora presidente? Perché c'era la polemica sullo stipendio. Non è una polemica, è una norma di legge che qualcuno si è inventato dicendo siccome uno è pensionato, non può fare un lavoro di questo genere, salvo che non lo fa gratuitamente e comunque non oltre un anno. Io sono già 6 mesi che sono lì, quindi è evidente che comunque non potrei farlo fra qualche mese ancora. Detto questo, io ho già detto, ho fatto il mio servizio civile per 6 mesi, una volta l'ho fatto un anno e mezzo, ma lo faccio quando adesso faccio vuole giustamente lavorando per allora per voglio dire, siccome adesso finisco a parlare con lei e parto per andare a lavorare lì, stasera alle 8 sono ancora lì. Allora dico, non ha senso, non è giusto a poter lavorare gratis una volta. Ho capito, una volta, e che le hanno detto? Cioè ce l'avrà uno stipendio o no? Non ho capito. No, la legge non prevede questo, ma non è tanto questa, la legge prevede che comunque dopo un certo tempo anche gratis non lo puoi fare più. Allora io che cosa sto facendo? Ho detto, per eccesso di responsabilità, io lascio la presidenza di Pedemontana, però non è che lascio tutti col, non si può dire prima mattina, per terra, ecco, capisci? Allora voglio approvare il bilancio, che ci vorrà fino alla fine di febbraio, metà marzo, voglio approvare il bilancio, e proprio questa mattina, oggi, oggi facciamo un'assemblea, un consiglio di amministrazione per la nomina per la gara, anzi lo dico pubblicamente, per favore, io oggi approviamo al consiglio di amministrazione una gara per individuare il direttore, il nuovo direttore generale, che verrà pagata anche di Pedemontana, nei limiti del rispetto della legge. Quindi vi prego, coloro che ritengono di avere i requisiti professionali e mani pulite per partecipare ad assumere la funzione di direttore generale di Pedemontana, mandino il curriculum. No, intenzione, stiamo per dare un posto di lavoro in diretta 24 mattina, non è mai successo. Dove? Di più, ad Astago, come direttore generale di una società autostradale, ed sarà una gara in cui sceglieremo nei limiti in cui l'uomo può indovinare o sbagliare. Ho nominato un'apposita commissione, nomineremo un'apposita commissione del tutto esterna alla stessa società, in modo che cercheremo di trovare, senza, non mi farò tirare per la giacchetta di metti questo. Dovrà sostituire lei, sostituire lei di fatto? Quando troverete il direttore generale, lei... Già oggi lo faremo, entro il 15 di febbraio deve mandare il curriculum, entro la fine di febbraio questa commissione sarà individuata. Io spero di... Lei prime settimane di marzo di fargli il passaggio di consegne e anche di offrirgli un caffè. Mi raccomando. Quindi ho dato una notizia mandate il curriculum. Allora, io nel ringraziare Antonio Di Pietro, vogliamo concludere con un giochino che facciamo da un po' di tempo. Grazie al signor Roberto Giachetti. Ha sentito Roberto Giachetti che all'ultima segreteria del PD si è lasciato un po' andare? E allora noi abbiamo istituito un premio. La faccia come il culo. Avete la faccia come il culo. Allora, il premio Giachetti, i nostri ospiti possono assegnarlo così a chi vogliono, e Antonio Di Pietro può assegnarlo a chi vuole. E il premio Giachetti si capisce, insomma. Ma lui c'è il premio, se lo faccio, se lo tengo. No, come se lo faccia, se lo tenga. Ah, quindi lo assegnava Giachetti, il premio Giachetti. Voglio dire, non si può, chi fa politica ormai non deve scadere questa affermazione. Quindi il premio Giachetti non lo assegniamo? No, se lo tenga in casa lui. Lo diamo subiudice, niente, non lo assegniamo. Allora io ringrazio Antonio Di Pietro per essere stato con noi. Mi raccomando, mandate i curriculum per diventare direttore generale della Pedemontana ad Assago entro il 15 febbraio. C'è da sostituire Antonio Di Pietro, c'è il passaggio di consegne, c'è anche un caffè pagato dallo stesso Antonio Di Pietro, è offerto. Grazie, ci sentiamo alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Poi Aline Mila, Eli e gestisce una lanciano di Yamia. 24 mattino. Sono le 7 e 18 minuti, ci siamo per raccontare quello che c'è sui giornali.